Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, la nostra rassegna stampa dei periodici. Questa mattina vorrei parlare di shopping, lo dico per due motivi. Il primo è che, come potete immaginare, tutti i magazine italiani e stranieri sono pieni di consigli per gli acquisti in previsione dei regali di Natale, ma anche perché curiosamente si sono create diverse segnalazioni, abbiamo avuto diverse segnalazioni qua e là da periodici, appunto, magari anche lontani tra loro, che si sono occupati a diverso titolo appunto dello shopping, del andare per compere. Cominciamo allora dalla storia, così mettiamo un po' di ordine nelle cose. Apprendo da Il, sapete che Il è il mensile del Sole 24 Ore, lo trovate in edicola già da qualche giorno, sempre in vendita abbinata con il nostro quotidiano. Il ci ricorda che nel 1884 il fatto che i grandi magazzini Harrods aprissero il loro reparto per le signore e consentissero così alle signore di potersi recare pubblicamente, ma da sole, ad acquistare appunto vestiti, scarpe e accessori, fu un grande momento di emancipazione femminile. E infatti proprio così, nel Momenti di Gloria, che è una rubrica sottotitolata Quei giorni che ci hanno cambiato la vita, proprio questa apertura dei grandi magazzini Harrods viene dedicato un articolo da Sonia Van Gilder Cook, che ci dice: l'emancipazione delle donne alla conquista di Harrods. E spiega appunto Van Gilder: andare a comprare un paio di scarpe non sembra granché come atto di liberazione, però il reparto scarpe stivali da donna dei grandi magazzini londinesi di Harrods diede a molte donne un assaggio di indipendenza, perché consentì loro di uscire per la prima volta, saldamente piantate sulle loro calzature naturalmente, dalla sfera domestica. Che cos'era successo più nel dettaglio? Che l'anno prima, nel 1883, un incendio aveva distrutto i primi grandi magazzini di Harrods. Quando il padrone Charles Harrod, appunto, l'anno seguente inaugurò il suo nuovo edificio, creò uno dei primi spazi pubblici dove le donne potevano girare da sole senza suscitare scandalo. E c'era appunto il reparto scarpe, la merceria, e lì le mogli erano libere di scegliere tendine di pizzo o naturalmente calzature. Tra l'altro, questo successo dei grandi magazzini, perché questo naturalmente creò molta curiosità ed ebbe molto successo, rese anche i maschi dell'epoca un po' ansiosi, perché qualcuno temeva che le donne avrebbero poi finito per soccombere a una frenesia di tipo sartoriale, insomma quello che poi abbiamo imparato molti decenni dopo a chiamare shopping compulsivo, ma qualcun altro invece temeva tutt'altro tipo di incidenti molto più tradizionali in qualche modo, perché tanto che fu vietato questi grandi magazzini di aprire dei ristoranti per timore che poi questi ristoranti diventassero dei luoghi di convegno amoroso. Questo è riportato tra virgolette, quindi insomma che l'occasione di recarsi a fare shopping fosse poi anche l'occasione per qualche momento di libertà un po' così eccessiva dalla relazione di coppia. La cosa era così ben nota agli stessi grandi magazzini che usarono proprio la pubblicità per sfruttare l'attrattiva della relazione clandestina, perché all'epoca si vedeva appunto un manifesto con un signore con cappello a cilindro che lanciava un'occhiata provocante a un'elegante dama mentre sorseggiava una tazza di tè. Lei da sua volta ricambiava questo sguardo in modo un po' complice. Insomma, in realtà il momento appunto di liberazione poi magari coincideva anche con una liberazione non di tipo appunto complessivo, ma soprattutto dalla fedeltà coniugale. Paradossalmente poi il successo di questi grandi magazzini, leggo sempre da Il, rese i grandi magazzini stessi un bersaglio per il movimento delle suffragette, le antesignane in qualche modo del femminismo, tant'è vero che nel 1912 centinaia di suffragette attiviste tirarono fuori dalle borsette dei martelli e frantumarono le vetrine dei negozi più eleganti di Londra, proprio per protestare contro questa che loro ritenevano una visione poco dignitosa della donna. I grandi magazzini però non furono particolarmente scossi, come poi abbiamo visto anche dal punto di vista storico, continuarono a farsi pubblicità, tra l'altro a farsi pubblicità anche sugli organi di stampa del movimento delle suffragette, quindi sapendo che poteva esserci qualche contestazione, ma poi l'attrazione verso lo shopping restava comunque presente. E allora vi ho detto che si parla di shopping nei modi più diversi, andiamo dalla storia invece all'attualità. Su Panorama di questa settimana, Natale val bene una coda, ovvero la febbre del sabato pomeriggio, ma di questi, in questi giorni anche della domenica a Milano. Che cosa succede? Succede che sono sempre di più i negozi alla moda, per dir così, i negozi più di tendenza, che decidono di far fare la coda all'ingresso, e oramai è diventato quasi un tratto distintivo. Ha cominciato un notissimo negozio di abbigliamento soprattutto per teenager, soprattutto per giovani, che ha instaurato questo rituale della coda per entrare, e nonché altri poi rituali all'interno, e adesso un po' anche altri negozi stanno cercando di fare lo stesso. Talvolta si tratta di negozi molto eleganti, talvolta persino di grandi magazzini, che però scelgono di creare un momento di attesa all'ingresso, così da far vedere questo tipo di coda. Il lavoro è stato fatto da Cristina Bassi, Marta Calcagno e Elena Porcelli. Hanno cronometrato anche quanto tocca stare in coda se si va un sabato pomeriggio in questo tipo di negozi. Non voglio far torto a nessuno, quindi non ne cito alcuno, ma penso che molti di voi abbiano esattamente capito di quali negozi si sta parlando. Sono soprattutto negozi di abbigliamento, gioiellerie o grandi magazzini comunque che contengono soprattutto proposte di abbigliamento, e si va dai 55 minuti ai 50 minuti, qualche volta invece si può cavare con una decina di minuti o anche meno, specialmente magari quando si tratta di grandi magazzini. Però il codometro in qualche modo è diventato il nuovo status symbol dello shopping, tanto che ci sono ovviamente degli uomini esasperati, ma sul tema uomini e shopping torniamo tra un attimo, e dicono: lo shopping natalizio passi, così leggo appunto l'articolo su Panorama, ma farsi anche la fila di un'ora per comprarsi un maglione è davvero troppo. Così le famiglie poi si separano nel centro di Milano, appunto ci sono coloro che restano in coda, parte della famiglia resta in coda e un'altra parte invece va a cercare magari un caffè o un altro posto, magari dove tuttavia gli toccherà aspettare. Si va appunto da 55 minuti, si può scendere sui 20 minuti, e ci informa sempre l'articolo: complessivamente nei negozi di Milano si spenderanno circa 290 euro a testa per i regali di Natale, è leggermente di più della media nazionale. Ognuno di noi spenderà per i regali di Natale 284 euro, questo è il calcolo. Divertente l'episodio che viene riferito sempre da queste croniste: un signore di mezza età che si avvicina a una ragazza in fila e chiede se tutta questa gente in coda è perché c'è qualche mostra interessante. Quando lei gli spiega che in realtà è un negozio di abbigliamento, lui ribatte: ah, ma allora qui regalano probabilmente dei vestiti. Naturalmente non è così, i vestiti si pagano anche là dove bisogna fare la coda, anzi, come appunto abbiamo detto, la nuova tendenza è avere un po' di coda fuori dal negozio per dare conferma che quello è un negozio di successo. E allora lo shopping in realtà è una delle cose che forse più dividono davvero i sessi, e di questo troviamo conferma da Raul Montanari su Grazia di questa settimana. Raul Montanari già dal titolo dichiara da che parte sta: possiamo salvarvi da un rinoceronte, si intende noi uomini rispetto alle donne, ma non chiedeteci di fare shopping. Ha trovato Montanari anche un motivo scientifico o parascientifico per questa differenza di approccio maschile e femminile rispetto allo shopping. Dice: abbiamo una spiegazione di tipo biologico. La sensazione di svenimento che il maschio prova in queste situazioni, cioè quando viene accompagnato a vedere decine e decine di vetrine entrare e uscire da negozi per molte ore, dice, questa sensazione di svenimento è reale ed è dovuta a un affaticamento visivo. E spiega appunto rivolgendosi alle lettrici: voi, non dimenticatelo, avete un campo visuale prossimo ai 180 gradi, cioè vedete un sacco di cose senza neanche muovere gli occhi. Noi altri abbiamo uno sguardo a cannocchiale, noi altri maschietti, che è perfetto per mettere a fuoco solo un oggetto alla volta, quindi possiamo fare ugualmente cose utilissime nella vita quotidiana, ad esempio individuare un rinoceronte che ci scruta malevolo a un chilometro di distanza. Però ci stanchiamo da pazzi a far rimbalzare guardare le pupille qua e là in un negozio. Quindi lo shopping, per favore, questa è la richiesta di Montanari, lo shopping fatelo con le amiche, non cercate di costringere i vostri mariti, i vostri fidanzati a un esercizio che davvero per loro sembrerebbe faticoso anche dal punto di vista biologico, anche dal punto di vista della conformazione biologica. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di shopping, anche di come lo shopping sia spesso motivo di dissidio nelle coppie. Anita Panizza, come sapete, mi aiuta a preparare questo programma, ha subito trovato anche degli esempi sia personali sia appunto tra le sue amiche, e tutti credo sappiamo che una delle distinzioni maggiori tra i sessi è appunto il piacere o il dispiacere che si prova ad andare per negozi. Certo che ci sono poi delle esagerazioni, perché ad esempio sfogliando tutt'altro settimanale un altro femminile, Two Style, apprendo che ci sono delle signore che si comprano anche migliaia di paia di scarpe. Sono naturalmente signore che possono permetterselo. Si parla della scarpiera delle star, hanno scelto di dare un po' evidenza a queste così a questo momento eccentrico di scarpiere. Si vede tra l'altro Christina Aguilera davanti a un enorme scaffale, immaginate una grande libreria dove stanno paia e paia di scarpe ben disposte in ordine, anche mi pare di cogliere con delle sfumature secondo il colore. Informa la didascalia che la cantante ha una passione per le scarpe che sono definite animalieche. Mi fermo qui perché la mia ignoranza in materia non mi consente di andare più nel dettaglio. Però la Aguilera, che possiede circa 750 paia di scarpe, in realtà è una di quelle che ne possiede di meno, perché ci sono anche delle sue colleghe che ne hanno molte di più oppure ne hanno di molto più costose. Paris Hilton, ci informa sempre Two Style, possiede circa 2000 paia di scarpe, Lindsay Lohan è arrivata a 5000 paia di scarpe e poi sarà Jessica Parker che ne avrebbe circa un migliaio. Veniamo a come dire, compratrici di scarpe più contenute, si fa per dire. Eva Longoria si accontenta di 600 paia, però riferisce Two Style, sono tutte con i tacchi molto alti, almeno da 12 cm anche in su. E poi Victoria Beckham, che dovrebbe essere la campionessa di questa particolare classifica, con 8000 esemplari addirittura, quindi qualcosa anche di decisamente ingombrante. Un'altra che comunque non si fa mancare nulla è una delle protagoniste di Sex and the City, Kim Cattrall, ma se vi dico Samantha forse capite meglio di quale attrice sto parlando. Ne ha circa 250 paia e ha un messaggio sulla segreteria telefonica che dice: io non sono in casa, le mie scarpe sì, potete lasciare loro un messaggio. E allora a questo punto, stabilita, ribadita la distanza tra uomini e donne, sia per lo shopping sia anche per queste passioni che possono arrivare davvero a dei numeri da primato per alcuni oggetti dello shopping, ad esempio le scarpe, vorrei spezzare allora una lancia su un'altra cosa che abitualmente divide uomini e donne, cioè il pisolino o la pennichella. Abitualmente è più gradito invece, diciamo ha una proporzione inversa rispetto allo shopping, è più gradito ai signori che non alle signore. Però c'è un femminile che viene in soccorso di noi maschietti, si tratta di Donna Moderna, dice: facciamoci una pennichella. Questo sta nelle pagine della Salute, il lavoro è stato fatto da Rossana Cavalieri, quindi non c'è neanche da pensare che sia una come dire, una congiura ordita dai maschi per avere un po' di requie, un po' di riposo in questi giorni decisamente frenetici. Si apprende da questa pagina di Donna Moderna che il sonnellino pomeridiano non è una pausa che abbia bisogno di qualche scusa per la salute, anzi è indicato per persone che sono in buona salute, fa sicuramente meglio delle passeggiate e dello sport che dopo mangiato possono ostacolare la digestione. Il riposino è da capire, non permette di recuperare le ore perse di sonno notturno, questo è una cosa seria, una cosa vera che viene detta appunto da un medico sentito dalla Cavalieri, anzi se c'è un problema di perdita di sonno notturno, in questo caso allora la pennichella rischia di aggravare la situazione perché innesca un circolo vizioso. Dormendo di giorno poi non si arriva abbastanza stanchi alla sera. Si dovrebbe dormire una mezz'oretta al massimo, mai di più, perché questo tempo è un tempo sufficiente per riposarsi a fondo. Un tempo poi superiore trasporta in stadi di sonno profondo e questo non va bene, appunto, va poi in conflitto con il sonno notturno. E non addormentarsi mai dopo le 3 del pomeriggio, il momento migliore per riposare è dopo il pranzo, quindi non oltre le 15. Ultimo decisivo consiglio per una pennichella come si deve: alla pennichella sdraiati a letto, sì, meglio il divano, meglio la poltrona. Non è una buona idea sdraiarsi, perché poi anche sdraiandosi a letto si sprofonda nel sonno. Pisolare vestiti sul divano va meglio, in poltrona va meglio. La postura semisdraiata, spiegano, aiuta la digestione e mantiene anche un minimo stato di vigilanza. A sostenere la teoria, peraltro, è la parola stessa di pennichella, perché, come spiega appunto Cavalieri su Donna Moderna, pennica è un termine romanesco che sta a indicare la posizione di chi pendola avanti e indietro, e quindi viene proprio da pensare alla classica sedia a dondolo o al, appunto, dondolarsi, che al cadere leggermente in avanti, che viene quando si viene colti da sonno improvviso. E allora veniamo a cose un po' più serie, recuperiamo anche un po' di serietà di tematica natalizia, andando su Storica, sapete, mensile del National Geographic. Nelle sue pagine di questo numero di dicembre si occupa anche della stella che guidò i Re Magi, la cometa. Cioè, per molti anni, per secoli, gli astronomi hanno cercato di capire quale fosse questa cometa che abbia guidato. Sono state fatte anche diverse ipotesi, tutte, diciamo, ugualmente valide. Naturalmente questo non mette in dubbio la bellezza e la profondità del racconto del Vangelo dei Re Magi, è proprio il cercare una conferma anche a un evento che poteva essere stato osservato o calcolato dagli astronomi. Inizialmente vuol dire nei primi secoli, si era pensato che i Magi avessero seguito Venere, perché in certi periodi, appunto, Venere mostra anche di giorno uno scintillio di colore dorato. Però questo sembra poco plausibile, perché in realtà gli antichi, i romani, sapevano benissimo questa caratteristica di Venere, quindi non era un fenomeno che poteva generare una particolare curiosità. Della questione si occupò anche Keplero tra il 1500 e il 1600, che aveva immaginato si trattasse di una nova, cioè una stella che all'improvviso si mette a brillare molto di più del normale e poi dopo un certo periodo di tempo torna nell'oscurità. Poiché aveva trovato testimonianze dell'apparizione di alcune nove in certi anni, nel 952 e nel 1256, aveva fatto dei calcoli e immaginato che poteva essere stata una nova quella che aveva guidato i Magi. C'è un'ulteriore ipotesi dello stesso Keplero che invece si basa sulla congiunzione tra Giove e Saturno, perché per il fatto del diverso movimento, del diverso tempo di rotazione dei pianeti, appunto, c'è una fase in cui Giove e Saturno arrivano a una congiunzione particolare. Questa congiunzione si verifica solo una volta ogni 59 anni e per il nostro punto di osservazione dalla Terra la luminosità di questi pianeti aumenta di molto. Sembrerebbe che questo possa essersi verificato intorno all'anno che noi chiamiamo l'anno 7 avanti Cristo, che però potrebbe essere, considerate che appunto l'affidabilità dei documenti dell'epoca non è così rigorosa come può essere quella dei tempi moderni, potrebbe essere l'anno in cui effettivamente è nato Gesù. E allora, con questa citazione tra lo scientifico e il religioso, ma perfettamente in tema natalizio, concludiamo la nostra puntata di Magazine 24. Grazie a Carmelo Lauricella questa mattina in regia, grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare anche questa puntata. Per Natale, sabato prossimo è Natale, quindi noi vi facciamo gli auguri, perché Magazine 24 quel giorno si ferma. Torneremo però in onda domenica di Santo Stefano, saremo regolarmente in onda sempre alla solita ora, intorno alle 8:30, qui su Radio 24. Molti auguri a tutti.